Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Italia imbiancata, sulla 1 automobilisti bloccati dai fiocchi, a Venezia la laguna si sorprende sotto la neve. Non solo bonus fiscali, soldi in contanti per uscire dalla crisi, la promessa del governo. Questa sera il piano sarà illustrato alle parti sociali, ne parliamo con il segretario della CISL Bonanni. 300 miliardi di dollari per salvare Citigroup, gli Stati Uniti in soccorso del gigante bancario, e oggi Obama annuncerà la sua squadra economica. I soldi per la sicurezza scolastica ci sono, il governo assicura niente tagli, migliorano i ragazzi feriti a Rivoli. Quattro giovanissimi fermati per aver dato fuoco al clochard a Rimini, gli inquirenti dicono l'hanno fatto per noia. Non possono esibirsi in pubblico, non possono posare per le foto della copertina del loro primo album, debutta solo su internet, il primo gruppo rock femminile saudita. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Come molti ricordano, perché a questo punto è già un ricordo, abbiamo trascorso uno degli ottobri più caldi degli ultimi anni e adesso siamo di fronte a un novembre che inizia molto molto freddo, soprattutto giocando d'anticipo sull'inverno. Scherzi di stagione, il maltempo di questi giorni ha portato il freddo ma anche la prima neve, una prima spruzzata in Lombardia e Veneto, nevicate più copiose sull'autostrada del Sole dove gli automobilisti sono rimasti bloccati e ora sono scattati i controlli della polizia stradale. Cosa sta succedendo? Allora andiamo subito alla redazione di Via Libera. Barbara Lazzari, com'è la situazione sulla A1? Al momento in autosole è ancora molto difficoltosa la situazione sul tratto appenninico. La neve su buona parte del tratto ha costretto ai controlli per le catene obbligatorie a bordo. Il traffico è congestionato da diverse ore su entrambe le carreggiate. Le code sono lunghe, 12 km verso Firenze a partire da Modena Nord, verso Bologna le code a partire da Firenze Sud si tratta di circa 10 km. E da poco sono iniziati anche i controlli nel tratto da Valdarno ad Arezzo verso Firenze. Anche qui ci sono le prime code nel tratto. Ricordiamo che proprio per l'Emilia Romagna è stata diramata un'allerta meteo fino alle 13 proprio per le previsioni di nevicate a bassa quota. Nella notte ha cominciato a nevicare tra Milano e Parma, nella mattinata molte le difficoltà sulla 15 della Cisa, nella zona di Pistoia, sulla 11 Firenze Mare, molta neve è caduta anche tra Piemonte e Veneto. Ora però la situazione è in miglioramento. Grazie, naturalmente che strada fa ancora alle 13.15 e continueremo ad aggiornarvi anche noi nel corso di Extra Large. E come abbiamo sentito la neve è sinonimo di disagi ovviamente, ma anche, come spesso accade, di scenari molto suggestivi. È quello che succede a Venezia, dove c'è la nostra Silvia Menetto. Questa mattina Venezia si è svegliata sotto la neve secondo le previsioni. I primi fiocchi della stagione, fiocchi grossissimi tra l'altro, che sono scesi dalle 8 uniti a forti raffiche di vento gelido. Un classico scenario invernale che non ha mancato di imbiancare alberi, giardini e anche una minima parte delle strade, anche se il comune comunque aveva già messo in atto il piano di allerta per l'emergenza neve e il sale è stato già sparso sui ponti. Comunque l'invito è alla massima prudenza per le possibili gelate. A corollario di questa mattinata da pieno inverno si aggiunge a Venezia anche la marea particolarmente sostenuta, tanto che nelle zone più basse della città ha fatto la sua comparsa anche l'acqua alta. E se a Venezia la neve non è riuscita poi ad attecchire più di tanto perché si è trasformata presto in pioggia, il manto bianco invece ha coperto Mestre e la terraferma in maniera molto più intensa, fino a Padova e a tutta la pianura. Sono stati segnalati un po' ovunque dei problemi alla circolazione, tutto infatti si sta svolgendo in maniera molto rallentata proprio a causa della viscidità del manto stradale. I mezzi spargi sono pronti ad entrare in azione, ma le previsioni parlano di un miglioramento della situazione già nel pomeriggio. E per ora è tutto, restituisco la linea. Grazie Silvia Menetto, abbiamo parlato dell'autostrada del Sole, della situazione a Venezia e al nord. Al sud invece l'emergenza riguarda il vento. A Catania per le prossime 24-36 ore la Protezione Civile raccomanda ai cittadini prudenza nelle vicinanze delle coste per via delle mareggiate. L'invito è anche quello a lasciare a casa i motorini. E voltiamo ora pagina, veniamo alla crisi. Aiuti cash subito alle famiglie, promette il governo. Dal 2009 invece gli aiuti per le imprese. Il piano anticrisi questa sera verrà illustrato alle parti sociali. Poi ci sono gli investimenti nelle infrastrutture per far ripartire l'economia. Insomma, un piano articolato che oggi per la prima volta sarà svelato nei dettagli nell'incontro con i sindacati. Tra poco ne parliamo con il segretario della CISL Bonanni. Prima però cerchiamo di capire in quale direzione vuole andare il governo. Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora Dino, dicevamo prima le famiglie, poi le imprese. Cominciamo allora anche noi da qua. Le famiglie, bonus, ma anche bonus fiscali, ma anche soldi, denaro liquido in tasca. Sì, quella che va configurandosi ha appunto l'aspetto di una vera e propria mini finanziaria, che peraltro, lo ricordo, per la prima volta agisce in contemporanea con l'Europa, perché dopodomani la Commissione europea renderà noto il maxi piano che riguarderà tutti i paesi europei, e dunque l'Italia farà parte per la sua fetta di questo maxi piano. Per le famiglie, diciamo in discussione, ovviamente il Consiglio dei Ministri è venerdì, quindi alcune misure potrebbero anche variare, ma in linea di massima si tratta sostanzialmente di concedere dei benefici fiscali sia sotto forma, diciamo, di un assegno cash per le famiglie più povere, sia sotto forma di un bonus che potrebbe variare tra i 150 e gli 800 euro, però limitatamente ai redditi fino a 20.000 euro. Sostanzialmente qual è l'obiettivo? Quello di tentare di diciamo far affluire un po' di liquidità, soprattutto nelle famiglie che stanno soffrendo di più della crisi, con la prospettiva, l'aspettativa, la speranza, chiamiamola. La fiducia, insomma. Ecco, la fiducia che qui una parte di questi nuovi fondi a disposizione possano in qualche modo confluire in consumi, perché sennò non si riparte. Per le imprese, dicevamo, tutto scatterà dal 2009. Per le imprese si sta ragionando su un pacchetto complessivo che riguarda sostanzialmente la riduzione dell'acconto IRES. Potrebbe esserci, anche se nelle ultime ore sembrerebbe, diciamo, caduto, comunque la riduzione dell'acconto IRES dal 99 al 96%, imprese autonomi, e poi si sta ragionando, questa è una, diciamo, ipotesi ancora allo studio, ma sostanzialmente confermata, sull'IRAP, e cioè verrebbe resa deducibile una quota attorno al 10-15% dell'IRAP dalle imposte dirette, cosa che finora non è possibile perché l'IRAP è indeducibile. Infatti c'è una, diciamo, pende una sentenza presso la Corte Costituzionale proprio su questo aspetto. Un'ultima cosa, Dino, dovrebbe riguardare, questa la facciamo a flash perché non riguarda direttamente i cittadini e le imprese, ma il piano di investimenti per le infrastrutture. Il piano di investimenti per le infrastrutture, in gran parte i 40 miliardi sono fondi in compartecipazione europea e dunque sono fondi già stanziati. Poi abbiamo un pacchetto di 16 miliardi, anch'essi già stanziati, ma che comunque attraverso il CIPE, la riunione del CIPE di venerdì, dovrebbero essere accelerati, vengono definite infrastrutture strategiche alimentate dal fondo delle aree sottoutilizzate. Quindi questo, tutto ciò dovrebbe avvenire nel Consiglio dei Ministri di venerdì, quindi abbiamo detto pacchetto fiscale e stimolo alla crescita attraverso le infrastrutture. Grazie allora Dino Pesole. Grazie a voi. Grazie. Come dicevamo, questa sera il piano dovrebbe conoscersi più in dettaglio perché il governo lo illustrerà alle parti sociali e noi tra poco ne parleremo con il segretario della CISL Raffaele Bonanni. Ora meno 6 al passaggio dell'Alitalia alla CAI. Oggi nuovi incontri, ma anche l'avvio del passaggio dei lavoratori con la cassa integrazione temporanea e poi in previsione anche le lettere di assunzione. Francesca Malaguti, facciamo il punto, buongiorno. Buongiorno, oggi si dovrebbe chiudere la partita della cassa integrazione. Inizierà tra poco al Ministero del Lavoro l'incontro tra i sindacati e i tecnici del governo, che dovrebbe essere conclusivo. Poi potranno quindi partire le lettere per i dipendenti messi in mobilità. Il tempo ormai stringe, teoricamente mancano solo 6 giorni al decollo della nuova compagnia. Questo ovviamente se la data del 1° dicembre rimarrà confermata. E domani è in programma il Consiglio di Amministrazione di CAI, che dovrebbe varare l'aumento di capitale e sarà probabilmente l'occasione per fare il punto sul partner internazionale. Questo anche alla luce dell'incontro che il presidente di CAI Colaninno venerdì ha avuto con il numero 1 di Air France Spinetta, un faccia a faccia con cui i due manager avrebbero definito i dettagli di un eventuale accordo per il quale i francesi avrebbero garantito un potenziamento delle rotte su Malpensa. Proprio in difesa dello scalo milanese ha parlato oggi il ministro dell'interno Maroni. Abbiamo chiesto a CAI che non venga penalizzato, ha dichiarato. Non sarebbe accettabile che il partner volesse chiudere risolvere o depotenziare Malpensa. È tutto. Grazie a Francesca Malaguti. E per quanto riguarda le ferrovie, venerdì sciopero dei treni dalle 9 alle 17, una protesta improvvisa decisa oggi contro, dicono i lavoratori, il licenziamento del delegato alla sicurezza che rilasciò dichiarazioni sugli incidenti ai treni Eurostar, ricorderete, avvenuti nei mesi scorsi. I ferrovieri ne chiedono il reintegro immediato. Ricordate la vicenda del senza tetto bruciato sulla sua panchina a Rimini il 10 novembre scorso? Ebbene, ci sono stati oggi 4 fermi, si tratta di giovanissimi. 4 riminesi di buona famiglia, poco più che 18 anni, potrebbero essere i responsabili del tentativo di omicidio di Andrea Severi, il clochard tarantino di 44 anni che fu dato alle fiamme mentre dormiva su una panchina a Rimini lo scorso 10 novembre. A risalire alle loro identità è stata la squadra mobile del capoluogo romagnolo. Si conoscevano tutti, possiamo definirli una banda, e al telefono tra loro commentavano con soddisfazione sia il risultato del loro gesto sia la risonanza ottenuta, ha spiegato il capo della squadra mobile di Rimini, Nicola Vitali. Salvato solo grazie all'intervento di una passante che diede subito l'allarme, Andrea Severi è stato ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova, dove ancora si trova e dove viene curato per ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Deborah Dirani, GR24, il Sole 24 Ore, Rimini. Dove va la TV italiana se a fare flop è anche un collaudato conduttore come Pippo Baudo? Che succede? Serata d'onore contro C'è posta per te. Pippo Baudo contro Maria De Filippi. Per 2 sabati in televisione è andata in onda però la disfatta degli ascolti del Pippo nazionale. La stampa di Torino l'ha definito il crepuscolo dei pipposauri. Sabato sera 6 milioni di italiani hanno guardato Maria De Filippi e solo 2 milioni Pippo Baudo. In termini percentuali, 31% contro 12. È la fine della televisione rassicurante del sabato sera? Giorgio Simonelli, docente di teoria e tecnica dell'informazione alla Cattolica di Milano. Credo che effettivamente sia arrivati un po' alla fine del mito del sabato sera. Insomma, bisogna ripartire da questa domanda. Chi è che vede la televisione il sabato sera? Allora, noi sappiamo che c'è un'Italia un po' così che ama Maria De Filippi, io non so per quali motivi, comunque ama questi toni melodrammatici, lamentosi, piagnoni. Bisogna vedere qual è il pubblico che non ama questo stile, che il sabato sera è a casa. Ecco, io credo che a questo punto forse bisognerebbe avere davvero il coraggio di puntare sul nuovissimo, più in alto e più di qualità. Ora Rai 1 ha deciso di mandare in onda un'altra puntata di Serata d'Onore, la terza su 5 previste, perché la Rai può amministrare l'ampio vantaggio su Mediaset nel periodo di garanzia, quello monitorato dalle aziende per decidere i futuri investimenti pubblicitari. Ma poi cosa potrà succedere? Io ricordo sempre che una rivoluzione fu fantastico, perché fantastico, che aveva uno stile molto giovanile, operò una rivoluzione nel pubblico, nel senso che i giovani stavano a casa, vedevano fantastico fino alle 10:30 e poi uscivano. Bisogna ripartire da un'idea davvero rivoluzionaria, che può essere anche nella tradizione della Rai, tornare allo sceneggiato del sabato sera, tornare al film del sabato sera, tornare al quiz del sabato sera. La Rai ha un quiz che va benissimo e che è molto bello e anche molto istruttivo, che si chiama L'eredità, ma basta con gli aggiustamenti, perché non funzionano. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:18, le notizie di oggi, extra large. Nuovo piano di salvataggio in America, pronto un intervento di garanzia da 306 miliardi di dollari per Citigroup, seconda banca americana. Oggi Obama annuncia il team economico. Disagi sulle autostrade per la prima neve, l'avete sentito, sulla A1 automobilisti bloccati sull'Appennino, al sud dell'emergenza il vento, allerta a Catania per le mareggiate. A Rimini fermati 4 giovani censurati di buona famiglia, sarebbero gli autori dell'incendio, la panchina su cui dormiva un clochard di 44 anni, ridotto in fin di vita. Gli inquirenti dicono l'hanno fatto per noia. Il governo incontrerà alle 19 le parti sociali per illustrare il piano anticrisi. Il ministro Sacconi annuncia aiuti in denaro alle famiglie più in difficoltà e per la CGIL 400.000 precari sono a rischio. Ne parliamo con il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, buongiorno. Buongiorno. Prima di arrivare a quello che sono le vostre aspettative sul piano anticrisi che il governo vi illustrerà stasera, quello che già è trapelato, vorrei chiederle sulla situazione in generale, una situazione difficile naturalmente per l'economia, per i lavoratori. Qualche giorno fa la CGIL ha stimato in 400.000 i lavoratori precari che sono a rischio di perdere il posto, annunciando l'arrivo di una valanga. Qual è la situazione? C'è un peggioramento in vista? Ma no, noi avevamo, come si sa, già una condizione economica tra le più precarie d'Europa. Non cresciamo da diverso tempo, più degli altri, quindi già la nostra struttura economica era debole. Ora è chiaro che si dirige verso una maggiore instabilità e abbiamo paura davvero per i nostri posti di lavoro. Ecco perché abbiamo chiesto e chiediamo con molta insistenza al governo di allestire un piano straordinario per sostenere le imprese e per sostenere i lavoratori, un piano di rimpinguamento forte delle casse integrazioni anche per quei lavoratori che non hanno i fondi è assolutamente importante di fronte appunto a quello che tutti calcolano un anno orribile, quello del 2009. Quindi anno orribile, una valanga, condividete questa visione che è della CGIL per ora, ma anche vostra? Ma credo. Tutto congiura che avvenga questo, perché ripeto, abbiamo strutture in difficoltà e la condizione di crisi si abbatterà fortemente. Peraltro noi abbiamo una croce e una delizia. La delizia è che abbiamo una struttura di aziende manufatturiere di servizio molto importanti insieme ai tedeschi, siamo gli unici che fondano per buona parte del loro prodotto interno lordo sulle merci che si realizzano, e questo è un fatto positivo perché ritornando alla economia reale avremo vantaggi più di altri, però bisogna conservarlo questo patrimonio che abbiamo. Ecco perché noi sosteniamo, ci verso un piano davvero forte e straordinario per sostenere imprese e lavoratori, il patrimonio umano, dobbiamo prepararci, riprepararci a ricrescere. Ecco perché noi riteniamo che un piano straordinario di cassa integrazione ci debba essere, come un taglio di tasse per a favore dei lavoratori e pensionati, e un lavoro forte per spendere tutti, ma proprio tutti, i soldi che ci sono nelle pieghe dei bilanci pubblici proprio per sostenere l'economia. Bonanni, alle 19 il governo vi presenterà il piano anticrisi, quindi sapremo anche esattamente di cosa si sta parlando. Poco fa ha parlato il ministro del welfare Maurizio Sacconi, l'ha raccolto la collega Chiara Di Michele, ascoltiamolo e poi lo commentiamo. Mi auguro che la CGIL voglia riflettere su uno sciopero tanto più isolato dalle altre organizzazioni, è un auspicio che faccio, è un invito caloroso che le rivolgo a considerare ciò che proporremo senza pregiudizi. Senza pregiudizi, dice Sacconi, che ne pensa? Peserà la valutazione politica o si andrà finalmente al concreto? Nessuna parte dell'Europa e del mondo, dei paesi industrializzati, di fronte a questa situazione che ci lascia attoniti, nessun movimento sindacale, anche i più forti come quello tedesco e così via, ha minacciato scioperi generali. Bisogna tutti quanti unirci per sostenere la nostra economia e per fronteggiare questo tifone di crisi finanziaria. Nessun posto. Qui purtroppo abbiamo questa condizione incresciosa che una sola organizzazione ha indicato nello sciopero generale, addirittura prenotandone altri nel mese di gennaio-febbraio. Mi pare davvero incredibile. Io spero che ci si ripensi e spero che ci si riunisca tutti, perché oggi più che protestare verso qualcuno, certo le ingiustizie vanno sempre sottolineate e anche denunciate con molto molto molto vigore, ma credo che lo sforzo maggiore oggi è rendere trasparente una discussione, rendere unita la classe dirigente, darsi un progetto assolutamente forte. Ecco perché, come chiedo loro di fare passi indietro, chiedo al governo di aprire una discussione con tutte le parti sociali con molta forza e anche con la stessa opposizione, perché la situazione si fronteggia se c'è una classe dirigente che cammina tutta nella stessa direzione. Senta Bonanni, la richiesta che lei fa, insomma, di un grande accordo, di mettersi tutti intorno a un tavolo per affrontare questa difficile situazione, è simile a quella che oggi dalle colonne del Sole 24 Ore il vice direttore di questo giornale Alberto Rioli, che chiede al governo una nuova stagione del coraggio, iniziare con un grande piano di investimenti per le infrastrutture in Europa e in Italia, e poi anche il tema della riduzione dei costi di produzione, quindi la competitività italiana, parliamo dei nuovi contratti e anche degli ammortizzatori sociali che in Italia, escluse le pensioni, quasi non esistono. C'è il clima per questo nuovo coraggio e in questo caso credo che vada indirizzato al governo questa richiesta di questo clima. Lei che ne pensa? Io credo che la posizione più insidiosa per quella parte del governo che non vuole dialogo, magari perché ritiene di andare da solo, insomma, senza alcuna discussione e mediazione con i vari soggetti, questa parte del governo ha bisogno proprio di uno scontro per giustificare questa sua posizione, tant'è che in Parlamento si va avanti a colpi di fiducia e così via. Chi ha esperienza politica e sociale questo lo dovrebbe sapere, ecco perché più che mostrare i muscoli bisogna usare argomenti che portino la classe dirigente intera, ecco perché condivido Rioli, a spingere da una sola parte. Io ho condiviso Napolitano e anche D'Alema negli ultimi giorni che hanno chiesto la stessa cosa, tutti insieme a progettare cosa sarà l'Italia nei prossimi anni. Faccio un esempio, si dice di utilizzare tutti i soldi nelle pieghe dei bilanci pubblici non utilizzati, che sono appunto inutilizzati, e per farlo significherà combattere contro la incapacità di progettare, combattere contro i conflitti tra varie istituzioni, tra vari enti locali, significherà combattere con una certa lentezza in cui si svolgono queste cose qui. Allora è verosimile pensare che quei soldi non si spenderanno perché ci sarà un nuovo decreto o nuove procedure che saranno pure importanti, ma se dovesse esserci, e sta a noi creare queste condizioni, un clima diverso. Tutti tirano dalla stessa direzione, perché prima di stabilire, se mi consentite, quali sono le posate e come le mettiamo appunto sul tavolo, bisogna prima riparare il tetto della stanza da pranzo. O vedo una classe dirigente che è più portata a litigare su come devono essere disposte le posate, e invece è il tetto da riparare. Il tetto si ripara se tutti assicurano una volontà nuova. Purtroppo la parola tetto ci rimanda anche a un altro tetto, tema. C'è un tetto che davvero era da riparare ed è quello della scuola di Rivoli. Pieghe di bilanci, soldi che non vengono spesi, tra questi ci sono anche quelli per la sicurezza scolastica, secondo lei? Senz'altro ci sono anche quelli per la sicurezza scolastica, ma c'è anche un piano per la scuola da portare avanti, altro che tagli come quelli che sono avuti. Faccio un esempio, quella scuola lì a Torino è una scuola del 1934 ed è una scuola non costruita allora e né riadattata dopo a fini scolastici. Peraltro è una scuola fatiscente che nessuno poi ha anche manutenuto, che rappresenta bene ciò che succede in tutta Italia. Il 70% delle aule delle scuole italiane sono state costruite non per essere scuole. Allora, un paese che è combinato in questo modo, il Presidente del Consiglio ha parlato di fatalità. Sì, è chiaro che la fatalità fa stabilire che proprio in quell'ora e in quel momento, in quel posto avviene il fatto, però quella fatalità è frutto dell'incuria, di scelte sbagliate, di non manutenzione e di una certa approssimazione che c'è. Quando il 70% dei plessi scolastici non sono stati costruiti per essere tali, e quando la manutenzione non si fa, e quando i plessi sono vetusti, più che vetusti, ma è chiaro che la condizione della scuola è quella che è. E poi, fatalità o no, accade quello che... Allora, qui bisogna finirla con questo clamore che succede solo quando il fatto si realizza. Sulla scuola si è teorizzato per 4 mesi che abbisognasse un taglio molto vigoroso perché si spendevano molti soldi. Io sono convinto che si spendono molti soldi, che ci sono sprechi, che ci sono inefficienza. Ecco, l'edilizia scolastica è una di queste, affittate o in luoghi vetusti non programmati per essere appunto plessi scolastici. Delle scuole. Questa è la realtà, ecco perché allora ci sono anche soldi o stanziati e non utilizzati per una situazione che vede la scuola italiana, cioè di un paese G8, che vive nel 70% di plessi non progettati e programmati per essere delle scuole. Grazie Raffaele Bonanni, segretario della CISL, ci fermiamo qua, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro di edilizia scolastica e di sicurezza negli edifici scolastici parleremo più avanti alle 13:45. 13:35 minuti, le notizie di oggi extra large. Il governo incontra le parti sociali per illustrare il piano anticrisi. Il segretario della CISL Bonanni, d'accordo con Epifani, a Extra Large, il 2009 sarà un anno orribile, ci vuole uno sforzo straordinario. Sacconi chiede alla CGIL di rinunciare allo sciopero. Nuovo piano di salvataggio in America, pronto un intervento di garanzia da 306 miliardi di dollari per Citigroup, seconda banca americana. Oggi Obama annuncerà il team economico. E la Banca Europea per gli investimenti annuncia il suo piano anticrisi, 30 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. Primi fiocchi di neve a Milano, imbiancata anche Piazza San Marco a Venezia, nevica anche su gran parte della pianura veneta, bloccata la A1, neve su 800 km di rete autostradale, ma nelle prossime ore tornerà il sereno. Rimini, fermati 4 giovani incensurati di buona famiglia, sarebbero gli autori dell'incendio alla panchina su cui dormiva un clochard di 44 anni ridotto in fin di vita. Non possono esibirsi in pubblico, non possono posare per le foto della copertina del loro primo album, debutta solo su internet il primo gruppo rock femminile saudita. Parliamo ancora di crisi economica perché le autorità federali americane hanno annunciato ieri sera un piano di salvataggio del gruppo bancario Citigroup, il secondo gruppo bancario americano. In base a questo piano le autorità federali si impegnano a garantire 306 miliardi di dollari di attivo in cambio di una assunzione di partecipazione. Si tratterà di capire esattamente di che cosa si tratta. Stati Uniti e Europa a confronto allora sugli aiuti alle banche e non solo. Su questo nuovo intervento dell'autorità americana e in attesa del vario in Italia del piano Salva Banche è intervenuto questa mattina il presidente dell'ABI, Corrado Fassola. Sentiamolo al microfono di Anna Marino. Le banche italiane in una situazione di normalità non hanno alcuna necessità non di interventi pubblici ma di ricapitalizzarsi. Sono in grado di farlo in maniera autonoma. In questa situazione, ecco, è fuori di dubbio che l'intervento dello Stato, che non è un aiuto di Stato, ma è finalizzato esclusivamente a dare alle banche italiane maggiore forza per sostenere l'economia reale, sia utile, ecco, e le banche italiane lo utilizzeranno. Quello che è capitato in altri paesi, a mio giudizio, non è possibile commentarlo perché le differenze tra gli Stati Uniti, ecco, e l'Italia, per fortuna nostra, in questo caso non sono assolutamente colmabili neanche se dovessimo prosciugare l'Atlantico. E sappiamo che la Commissione europea sta esaminando proprio questa settimana un piano di interventi, il piano europeo anticrisi dovrebbe essere una serie di interventi da 130 miliardi di euro. Nel frattempo ad annunciare un proprio piano è la Banca Europea degli Investimenti. Il vicepresidente Dario Scannapieco, intervenuto questa mattina a Milano, a Roma, l'intervento è stato raccolto dalla nostra Vanessa Colangiuli. Le misure della BEI in Europa, già in fase di realizzazione e in fase di studio, si concentreranno principalmente sulle piccole e medie imprese, sulle imprese di taglia superiore alle PMI, le cosiddette mid-caps, sull'energia, sul cambiamento climatico e sulle infrastrutture. Con riguardo alle piccole e medie imprese e alle mid-caps, il sostegno finanziario della BEI si realizza attraverso l'intermediazione del sistema bancario. La BEI finanzia le banche, che poi a loro volta finanziano le imprese, in quanto la BEI non dispone di una rete territoriale. I termini e le condizioni dei prodotti per questi beneficiari sono stati snelliti al fine di consentirne un uso maggiore da parte delle banche e assicurare un più efficace trasferimento del vantaggio finanziario ottenuto dalla provvista favorevole della BEI ai beneficiari. L'ammontare destinato annualmente a questo prodotto sarà aumentato, con l'obiettivo di concedere prestiti attraverso, ripeto, il sistema bancario per circa 30 miliardi di euro per il periodo 2008-2011. Notizia dell'ultima ora arriva dalla Procura di Milano. I magistrati della Procura di Milano hanno chiesto il rinvio a giudizio per 34 tra persone e due società, Telecom e Pirelli. La vicenda è quella dell'inchiesta sui dossier illegali tra le persone coinvolte nelle indagini. Lo ricordiamo, l'ex capo della security di Telecom e Pirelli Giuliano Tavaroli e l'ex capo del controspionaggio del Sismi Marco Mancini. E torniamo in America, perché eletto il presidente degli Stati Uniti, adesso l'attenzione si concentra sul team economico che Barack Obama sceglierà e che dovrà affrontare proprio la grave crisi economica del paese. Di Citigroup abbiamo già parlato poco fa. Obama oggi annuncerà la sua squadra, quasi certo che Timothy Geithner, presidente della Fed di New York, sarà al timone del tesoro. Sembra certo che Obama vorrebbe anche firmare, non appena entrato alla Casa Bianca, una legge per autorizzare una serie di grandi spese pubbliche, sgravi fiscali, una cifra che dovrebbe essere di molto superiore ai 175 miliardi di dollari ipotizzati in campagna elettorale. E allora sulla formazione del team presidenziale, sulle prime mosse in campo economico di Obama, Daniela Binello ha intervistato il direttore dell'agenzia ANSA, Giampaolo Gramaglia. Nella tradizione degli Stati Uniti, che almeno un rappresentante del partito sconfitto nelle elezioni presidenziali sia coinvolto nell'amministrazione. E tra l'altro proprio le amministrazioni democratiche hanno la tradizione di coinvolgere il capo del Pentagono, il responsabile della difesa del presidente Clinton, come forse del presidente Obama, è stato e potrebbe essere un repubblicano. Obama dovrà essere cauto nell'usare la leva fiscale su quel 5% di ceti americani più ricchi? La leva fiscale verrà usata nel modo più discreto possibile dal presidente Obama, perché è comunque una leva non popolare negli Stati Uniti. Ridurre le tasse lo è, aumentare le tasse anche ai ricchi non lo è. Dopodiché, in una situazione di difficoltà dell'economia come quella attuale, può anche darsi che i ceti elevati accettino un'azione di solidarietà, ma senz'altro questo sarà attribuito poi ad Obama come un elemento di freno alla crescita e al rilancio dell'economia. Le nuove politiche economiche europee devono essere varate prima del prossimo G20 del marzo 2009? Sì, bisogna farlo in fretta, perché un consenso su un progetto così impegnativo e che richiede un consenso internazionale così vasto può maturare soltanto in una situazione di pressione, di tensione come c'è adesso sui mercati e per le preoccupazioni economiche. Se questa situazione si decanta, sarà molto più difficile ricreare la spinta necessaria a prendere decisioni di questa portata. Restiamo all'estero. La situazione in Congo. Sabato il leader dei ribelli congolesi che lotta contro l'esercito regolare, Laurent Nkunda, ha tenuto il suo primo comizio pubblico nel quale ha detto di volersi opporre all'invio di altri 3.000 caschi blu dell'ONU in Repubblica Democratica del Congo. E allora una nuova puntata del nostro diario dal Congo di Giampaolo Musumeci. Ci sono due parole che non vorresti mai sentire pronunciare in una zona di crisi in Africa. Sono only black. Ce la gridano ieri, ce la grida un soldato governativo, eravamo alla frontiera, stavamo tornando a Goma, eravamo andati a visitare uno dei campi sfollati di Kibati e la tensione è esplosa in un attimo. Alla barriera il Fardese, cioè le gruppe governative, bloccano un convoglio ONU per ispezionarla, costringono così i caschi blu ad aprire i veicoli e in una camionetta trovano 23 persone, tra cui alcune armate. In quel momento il colonnello Stark delle Fardese crede di aver fatto il colpo della sua carriera e battezza così la situazione. Sono 23 uomini di Nkunda che la MUNC sta cercando di portare di nascosto a Goma. Apriti cielo. I militari della FARDC iniziano a provocare gli uomini della MONUC e i civili iniziano a lanciare sassi. A nulla valgono in quel momento le spiegazioni, i tentativi di spiegazione del comandante del convoglio della MONUC. Le 23 persone erano 10 guerriglieri Mai Mai che stavano deponendo le armi, 10 poliziotti governativi in missione nel territorio dei ribelli e che stavano tornando assieme al convoglio della MONUC e 3 civili, 3 giovani del territorio di Rushuru che avevano chiesto alla MONUC di proteggerli, di farli uscire dal territorio controllato dai ribelli e poter arrivare così sani e salvi a Goma. Il bilancio, 2 feriti del contingente ONU della MONUC e la rabbia della gente che è esplosa verso tutti i bianchi, secondo una bizzarra equazione per cui tutti quelli che avevano la pelle bianca erano della MONUC, compresi noi giornalisti. Only black, queste due parole che non vorresti mai sentire pronunciare e qui in pochi secondi da osservatore puoi diventare bersaglio. E la nostra finestra di oggi sul mondo arabo è dedicata ad un gruppo di donne molto molto coraggiose. Did you ever listen to your heart? It will tell you that we're falling apart. non possono esibirsi in pubblico, non possono posare per le foto della copertina del loro primo album e per timore di offendere le autorità religiose del loro paese eseguono le prove in una cantina segreta. Si tratta della prima banda rock saudita interamente femminile destinata forse ad entrare nella storia. Cliccando in internet su Accolade, questo è il nome della banda, si può ascoltare il primo single del gruppo intitolato Pinocchio. Per comprendere il coraggio di queste ragazze basti pensare che nell'ultra conservatore regno wahabita alle donne è vietato persino di guidare le auto. Per noi è una grande sfida, dice la leader e voce del gruppo Lamia. Andando in giro con jeans, magliette e piercing sotto la baia, la tunica islamica che copre tutto il corpo. Forse siamo matte, vogliamo fare qualcosa di diverso, afferma Lamia, che nella speranza che tra 10 anni qualcun'altra possa suonare in pubblico, si diverte con le sue amiche negli scantinati di Jeddah. Adi Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. minuti, GR24 Extra Large. Il governo incontra le parti sociali per illustrare il piano anticrisi. Il segretario della CISL Bonanni, d'accordo con Epifani, a Extra Large. Il 2009 sarà un anno orribile, ci vuole uno sforzo straordinario. Disagi sulle autostrade per la prima neve sulla A1, automobilisti bloccati sull'Appennino. Al sud l'emergenza è il vento, allerta a Catania per le mareggiate. Sono pessimista con l'intelligenza, ottimista con la volontà. Così Sandro Curzi raccontava a se stesso questa mattina i funerali laici in Campidoglio. I soldi per la sicurezza scolastica ci sono, il governo assicura dopo l'incidente a Rivoli, ma per il Codacons a rischio sono 3 scuole su 4. Sono stazionarie le condizioni di Andrea Macri, il ferito più grave della tragedia avvenuta sabato al liceo Darwin di Rivoli nel torinese, dove è morto il suo compagno di classe Vito Scafidi nel crollo di una controsoffittatura dell'aula della loro scuola. Il rischio è che possa però rimanere paralizzato. Sono buone fortunatamente invece le condizioni degli altri due feriti. Resta però il dato del rischio per gli edifici scolastici italiani. Sapete quanti sono? Secondo il Codacons 3.500 le scuole non sicure che necessitano di interventi urgenti. E l'Associazione dei consumatori l'ha denunciato oggi: il 75% degli edifici scolastici non è sicuro, 1 su 4, e ha annunciato che se gli interventi non saranno attuati si chiederà la chiusura o il sequestro e il conseguente affidamento ai sindaci delle strutture particolarmente a rischio. Dibattito ancora accesissimo. E pensate che è dal 1996 che presso il Ministero dell'Istruzione si attende l'istituzione di un'anagrafe dell'edilizia scolastica. Un elenco che, assicura a questo punto il ministro Gelmini, sarà finalmente pronto entro gennaio. Naturalmente staremo a vedere e ve lo racconteremo. Intanto comuni e province, cui spetta il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, hanno continuato a lamentare carenze di fondi, insufficienti trasferimenti da parte dello Stato. Anche qua si ribatte, i soldi arriveranno, è quello che dice adesso il Ministero dell'Istruzione, così il sottosegretario all'Istruzione Giuseppe Pizza, intervenuto oggi ai microfoni di Repubblica TV. Così dovremmo avere... No. Non abbiamo la possibilità di sentire, forse tra poco riusciremo a sentirlo, se in regia riusciremo a recuperare questo audio, altrimenti andiamo avanti. Ecco, sentiamo Pizza. Eccolo. L'articolo 7 di questa legge 169 si è resa strutturale la destinazione all'edilizia scolastica del 5% di tutte le risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche. Questa è la prima cosa. Poi sono state avviate con lo stesso articolo le procedure per recuperare le cifre non assegnate, si tratta di 100 milioni di euro, si è previsto un immediato intervento su almeno 100 scuole per il rischio sismico e subito, diciamo a luglio, è stato disposto, ecco, dal ministro Gelmini il riparto di 300 milioni per il 2008, lo stesso si pensa fare per il 2009. E così il sottosegretario Pizza. In una sala della Promoteca in Campidoglio a Roma, stracolma dei cittadini comuni, politici, giornalisti e autorità, si è intanto da poco conclusa invece la cerimonia laica per l'addio al giornalista Sandro Curzi, morto sabato a Roma. Era stato ospite a Radio 24 al Cielo in una frase. Noi lo ricordiamo con le sue stesse parole. Citando una frase di Antonio Gramsci, Curzi parla della paura della fine. Sono pessimista con l'intelligenza, ma ottimista con la volontà. Dentro queste poche parole io ci ritrovo, vabbè, la mia vita, quello che mi è accaduto, come ho cercato di comportarmi. Pessimista perché ho anche paura di tutto, anche della fine. Penso quando non sarò più nulla. Io non sono riuscito a diventare credente e non sono ateo. E sono quelle persone che si guardano intorno, che cercano e quindi diventano un po' pessimisti sul quello che ci attende. Abbiamo parlato molto di economia in questa edizione del GR Extra Large. C'è una nuova classifica che riguarda la competitività. L'Italia è maglia nera agli ultimi posti in Europa. Secondo almeno quello che riferisce il centro di ricerca del settimanale Economist, il nostro è un paese definito sostanzialmente statico nella classifica mondiale. Ci piazziamo, pensate, 40esimi dopo Thailandia e Lettonia, nel vecchio continente, davanti solamente a Turchia e Grecia. Questo però naturalmente secondo questo centro studi del settimanale L'Economist. E se economia e crisi è stato il tema demanante oggi di Extra Large, ci torniamo anche con il nostro Dizio Radio del lunedì prima di chiudere. L'economia mondiale sia in una situazione di forte e diffusa crisi ormai non è più un mistero per nessuno. Speriamo insomma che vengano varate il prima possibile delle misure per uscirne, certamente non sarà una cosa veloce, però è anche importante allora in questo frangente imparare un po' i termini dell'economia, specie certi termini di economese, cioè magari che si capiscono meno facilmente. L'altra volta abbiamo parlato con Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore di recessione, no? Rispetto alla crisi, che cos'è la recessione? Però ultimamente Riccardo ho sentito parlare anche di un altro termine che è deflazione. Dobbiamo ancora più tremare di fronte a queste cose? Cos'è un passo ulteriore? Mi sembra quasi il contrario di inflazione, ma illuminaci tu. Sì, la deflazione, diciamo subito, per ora è soltanto uno spettro. È una cosa apparentemente molto bella, perché calano tutti i prezzi. Ah. Tutti i prezzi calano, per esempio per una persona che ha un stipendio fisso può essere una cosa molto positiva, un gran vantaggio, sì, perché aumenta effettivamente il potere d'acquisto. Ma secondo me c'è qualche fregatura di... però cos'è? Qual è la fregatura? È che per prima cosa la deflazione in genere è legata alla recessione e quindi è il sintomo di una malattia più grave. Recessione significa disoccupazione, quindi sì, la gente non ha un reddito, molte persone non hanno un reddito da spendere. Poi succede che tutta l'economia continua, a causa della deflazione, continua ancora a rallentare. Se una persona deve fare un acquisto importante, un'auto, aspetta, rimanda, quindi, perché spera che cali ancora il prezzo. E questo è un circolo vizioso, perché la gente non acquista più e quindi l'economia rallenta e i prezzi scendono ancora. Per ora è soltanto uno spettro, nel senso che non ancora si verifica una cosa del genere, è un'eventualità molto rara. Si è verificata quella della deflazione, quella della deflazione, i prezzi. Una diminuzione di tutti i prezzi, non di alcuni prezzi anche importanti come sta avvenendo adesso e come è avvenuto anche in passato. Adesso sta scendendo per esempio lentamente il prezzo del petrolio, comunque è uno dei prezzi. Quindi chiaramente porta degli effetti, perché qualcuno spenderà meno in benzina e più, certamente, in altre cose. Però non è ancora la deflazione e non è neanche quello che sta accadendo adesso, la disinflazione, cioè l'inflazione. Ah, c'è pure la disinflazione. La disinflazione, che è l'inflazione che rallenta. Prima l'inflazione in Italia era ad agosto il 4,2%, adesso è scesa intorno al 3,5%, i prezzi continuano a salire ma sempre meno. Questo è la realtà attuale. Quindi è il passaggio intermedio, passaggio ulteriore più grave potrebbe essere la deflazione. La deflazione che spiegando. Difficilmente, tra l'altro, è difficilmente controllabile, cioè le banche centrali, che sono quelle che regolano il livello generale dei prezzi, hanno molta difficoltà a contrastare la deflazione, per questo è considerato uno spettro. Però ancora quindi non ci siamo, è uno spettro, un fantasma. Esatto. Potrebbe avvenire l'anno prossimo una breve fase di deflazione, ma non sarà ancora la cosa più preoccupante, diciamo. Ma e per lì avremo tempo, speriamo che nel frattempo succeda qualcosa di positivo. Intanto grazie a Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore, Roberta Giordano vi dà appuntamento con Dizio Radio al prossimo lunedì. Il governo incontra le parti sociali per illustrare il piano anticrisi. Il segretario della CISL Bonanni, d'accordo con Epifania Extra Large, il 2009 sarà un anno orribile, ci vuole uno sforzo straordinario. Sacconi chiede alla CGIL di rinunciare allo sciopero. 300 miliardi di dollari per salvare Citigroup, gli Stati Uniti in soccorso del gigante bancario, e oggi Obama annuncerà la sua squadra economica. Italia maglia nera della competitività, 40esimi dopo Thailandia e Lettonia, secondo il settimanale Economist. I soldi per la sicurezza scolastica ci sono, il governo assicura niente tagli, migliorano i ragazzi feriti a Rivoli, ma per il Codacons a rischio sono 3 scuole su 4. Italia imbiancata sull'autostrada del sole, automobilisti bloccati dai fiocchi, a Venezia la laguna si sorprende sotto la neve. 4 giovanissimi fermati per aver dato fuoco al clochard a Rimini, gli inquirenti dicono l'hanno fatto per noia. GR Extra Large, Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio per questa edizione, con il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Fabio Cantadori. A domani, come sempre dalle 13, buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.